Festival, insomma, nasce appunto da un'idea qui al carcero di insomma, fare una proposta che insomma, vediamo ormai presente in quasi tutte le più grandi città europee, non solo, che è quello appunto del Queer Festival, quindi un, come dire, uno spazio, un momento in cui esplorare come dire, l'eterogeneo mondo dei e delle producer e DJ queer. Quindi insomma la possibilità di, come dire, di portare avanti una ricerca tra generi diversi e differenti, generi sia musicali ma non solo, anche di identità. Per quanto riguarda invece i contenuti di questa seconda edizione, quali saranno? Allora, chiaramente la protagonista deve rimanere la musica e la rappresentazione anche di come dire, sonorità diverse tra di loro. È un festival di 4 giorni con ospiti nazionali e soprattutto internazionali. L'apertura è data da questo mercoledì, il 20, da Lili Meraviglia, TikToker, producer, fashion icon, un personaggio amato soprattutto, come dire, dalla generazione più giovane, che si esibirà sia in un live set che in un DJ set. Giovedì invece abbiamo per la prima volta in Italia dal vivo il concerto di Christine, questo come dire, personaggio estremamente controverso, i cui show sono veramente un portento. Immaginatevi una sorta di Peaches ma ancora più spinta e ancora più pari. Il suo sound si muove tra elettronica e post pop e insomma è un evento a cui teniamo moltissimo. Il venerdì e il sabato invece abbiamo ragionato su, pensando di collegarci a delle realtà, a dei club e a delle crew in giro per appunto internazionali. In particolar modo il venerdì avremo Veselka, che è sia una crew che un party, il party di riferimento della scena techno queer di Kiev. Ospiteremo due dei suoi DJ resident principali che a causa della guerra ancora in corso chiaramente hanno, come dire, subito una diaspora, c'è chi si è spostato in Germania, chi in Belgio, eccetera. Mentre sabato ospiteremo i resident del party Big Dyke Energy di Londra, che propongono un sound molto più UK, quindi certo house, ma anche breakbeat, drum and bass, rave 90, eccetera. Insomma, davvero tanti ospiti internazionali in questa seconda edizione dello Spiral Festival. Si svolgerà tutta al Cassero, le modalità, insomma, per andare a una di questi party che ci stavi raccontando, quali sono? Allora, tutti gli eventi sono chiaramente dal Cassero, il festival è dal 20 al 23 di settembre. Tra l'altro faccio presente che insomma, in virtù del patrocinio di Bologna Estate, gli eventi saranno tutti senza tessera, quindi c'è un biglietto d'ingresso ma non c'è bisogno della tessera. Tutti gli eventi iniziano alle 22, quindi con un leggero anticipo rispetto a quelli che sono i nostri soliti orari, e poi per dettagli, prevendite, info potete cercarci sui social sia del Cassero, quindi Cassero LGBT Center su Instagram, o oppure spiral.festival. Grazie mille Mauro per avercelo raccontato e ci vediamo al Cassero questa settimana. Vi aspettiamo!